Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.43 e tramonterà alle 16.55. Domani c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lara Boccalon. Strategici per lo sviluppo dell'agricoltura sono gli istituti agrari. In Friuli Venezia Giulia ce ne sono tre che con le loro eccellenze e specializzazioni formano tecnici sempre più ricercati per un mercato del lavoro che fa registrare segnali di ripresa. Questo il tema del servizio di apertura, per passare poi per la rubrica del bio alla selezione domestica delle sementi, pratica antica ma oltremodo attuale per preservare la diversità. A seguire la terza puntata dell'avventura di Stefano Montello e del suo orto sociale e poi una scheda sul ginepro, pianta diffusa anche in regione con proprietà inaspettate. Per la rubrica della sicurezza in tavola affronteremo il tema degli accorgimenti per scegliere i cibi e poi una scheda sulla pasta asciutta nostrana ante litteram in Mlinzi. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Una gentile ascoltatrice ci ha chiesto di occuparci degli istituti agrari. Quali sono, quanti sono in Friuli Venezia Giulia? Lo chiediamo a Giovanni Cattaruzzi, che è il presidente del Collegio dei Periti Agrari. In Friuli Venezia Giulia abbiamo tre istituti tecnici agrari che si chiamano il Tagliamento di Spilimbergo, a sede a Spilimbergo, il Paolino d'Aquileia di Cividale del Friuli e il Giovanni Brignoli di Gradisca di Sonzo. E direi che è una rete di istituti estremamente importante e siamo fortunati in regione ad avere una numerosità così elevata di istituti per la formazione tecnica dei periti agrari. C'è qualcosa anche a Pozzuolo? C'è qualcosa anche a Pozzuolo, c'è l'Istituto Sabadini che forma i tecnici professionali e che si dà un grande affare anche questo istituto nella formazione dei propri studenti. Quali le eccellenze istituto per istituto, quali le mission, chiamiamole così? La mission formativa è sostanzialmente orizzontale, vale a dire l'indirizzo di studio generale agraria, agroalimentare e agroindustria, dopodiché ci sono delle specializzazioni particolari di ogni istituto. In particolare il Tagliamento di Spilimbergo è specializzato nella produzione e trasformazione dei prodotti e la gestione dell'ambiente e del territorio, mentre Paolino d'Aquileia di Cividale e Brignoli di Gradisca di Sonzo hanno una specializzazione in più che è quella di viticoltura ed enologia. Direi che un grande vantaggio che posseggono questi istituti è l'azienda agraria, vale a dire gli studenti hanno la possibilità di specializzarsi e di sperimentare le tecniche di coltivazione e anche gli aspetti scientifici legati a questo direttamente in campo. Sono dotati di aziende agrarie veramente strutturate e complete. Qual è la figura del perito agrario? Com'è cambiata? Ma nel tempo la figura del perito agrario è cambiata e si è specializzata sempre di più. Diciamo che il tecnico agrario è esperto in una quantità di materie estremamente ampia, dopodiché ci sono anche lì specializzazioni per portare l'impresa a diciamo una multifunzionalità e un'ecosostenibilità che sono i requisiti fondamentali per reggere il mercato all'attualità. Gli studenti che escono da questi istituti, dopo averli frequentati con profitto, sono dei tecnici agrari, vale a dire dei tecnici in grado di dirigere aziende, di amministrare l'azienda agraria, esperti di settore, impiegabili nelle reti di vendita di mezzi tecnici, impiegati presso le istituzioni specializzate come gli uffici regionali che si occupano di agricoltura, oppure accedere alla libera professione. Nell'ambito della professione possono occuparsi validamente di consulenza degli imprenditori agricoli per finanziare investimenti tramite il piano di sviluppo rurale oppure la programmazione dei piani culturali o diventare consulenti delle compagnie assicurative per la stima dei danni da avversità atmosferiche. E inoltre possono diventare promotori di progetti di valorizzazione dei prodotti agroalimentari nei settori dell'olio, dei prodotti caseari, vitivinicoli, ortofrutticoli, via dicendo. E anche qui una peculiarità, un'esclusiva che i nostri tecnici posseggono, che sono esperti in materia di difesa fitosanitaria con metodi ecosostenibili. In questo caso periti agrari e dottori agronomi e forestali hanno un'esclusiva che decisamente dà una marcia in più a questi professionisti. Domanda d'obbligo, alla fine degli studi, il lavoro lo trovano? Il lavoro lo trovano e devo dire che nella nostra nicchia legata alla libera professione stiamo notando un aumento degli iscritti proprio perché la specializzazione che conseguono presso questi istituti permette loro di entrare in contatto con i settori più specialistici. Di conseguenza vediamo ad esempio un grosso afflusso di tecnici verso il mondo delle perizie e delle stime di danno da avversità atmosferiche con le assicurazioni specializzate in questo settore. Il loro titolo viene molto apprezzato, viene apprezzata la terzietà con cui vengono formati, preparati e soprattutto vengono apprezzate le loro competenze. Le nostre nonne sicuramente lo facevano, di anno in anno riproducevano il radicchio, per esempio, di cui parlerà adesso Cristina Micheloni, facendosi in casa il seme. E non solo lo riproducevano, ma lo selezionavano. Anche questa è un po' la differenza e il punto di ulteriore vantaggio, perché oggi l'agricoltore professionista può trovare in commercio tutte le sementi che vuole, diversità, colori, momenti di semina, maturazione, quindi trova di tutto. Però sono, specialmente per chi vuole fare biologico o semplicemente un'agricoltura un po' più ragionata, queste sementi che trova in commercio sono messe a punto per un'agricoltura turbo, ovvero con l'uso di un sacco di input esterni e anche non specificamente per i nostri territori. Riprendere in mano invece la selezione e la moltiplicazione delle sementi facendolo in azienda significa riprendere delle varietà che crescono bene in quel posto lì e che soddisfano anche il mercato che noi abbiamo, perché per esempio chi fa ortaggi per la vendita diretta ha delle esigenze ben diverse da chi fa ortaggi da vendere al supermercato. Un esempio soltanto, al momento di raccolta, chi fa vendita diretta ha bisogno di qualcosa che matura gradualmente, chi invece vuole vendere al supermercato ha bisogno di una varietà che matura tutto assieme. Questa è una differenza non da poco, ma poi ci sono anche dei tratti qualitativi, agronomici diversi. Quindi riprendersi in mano il farsi le sementi è un atto che aiuta, è uno dei pilastri per fare un'agricoltura ragionevole e per utilizzare meno input di qualunque tipo, siano essi fertilizzanti, siano essi fitofarmaci, sia l'irrigazione anche, per esempio, che sta diventando un costo importante nelle estati sempre più siccitosi. E noi abbiamo in regione diversi esempi molto molto interessanti, ma anche lunghi, nel senso che abbiamo orticoltori che si sono selezionati da anni gli ortaggi, ne hanno fatti anche delle tipologie di ortaggio specifico che vendono soltanto loro, perché loro soltanto fanno. L'hanno fatto per i fagioli, l'hanno fatto per le crucifere, per altri ortaggi, ma anche per i cereali. Per esempio in alcune aziende siamo ripartiti da un miscuglio fatto da un genetista, Salvatore Ceccarelli, e da 10 anni viene rimoltiplicato e riselezionato nei nostri territori. La cosa interessante è che da azienda a azienda questo miscuglio d'origine è già diventato diverso e quindi la diversità ci permette di fare bene agricoltura in quel posto lì. Il fatto di preservare le vecchie varietà è sicuramente una cosa importantissima, culturalmente fondamentale, ma anche agronomicamente fondamentale, però non basta, bisogna riprendere in mano quel processo di coevoluzione fra l'uomo e le piante coltivate, uomo o donna evidentemente, sia esso agricoltore e sia esso consumatore. Se vogliamo parlare di identità, di territori, quella, la semente, non può essere l'ultimo anello delle decisioni. Terza puntata, oggi sull'esperienza dell'orto sociale, del nostro Stefano Montello. Lo smilzo a volte si metteva in moto, era sempre su di giri, ciarlero, ossessivo, agitato, un diesel perpetuo, ma a volte gli si accendeva proprio una luce interiore e gli venivano delle idee strane. Tipo appendersi a un ramo ciondolante o togliere di mezzo una siepe, tutto con la scusa dell'ordine. Quel giorno fu il turno della motosega, portata da casa. Doveva tagliare un ramo penzolante, disse. Gli la strappai di mano e gli dissi soltanto che se avesse provato a entrare nel nostro orto, dove si entra con un sacrale rispetto, con quei modi irruenti lì, avrei usato la sua motosega per accorciargli un po' i femori. Non credo che un manuale del buon educatore possa contemplare affermazioni del genere, ma fu una mossa strategica e lo smilzo cominciò a guardarmi con un occhio un po' diverso, probabilmente anche con affetto. Anche gli altri progetti di inclusione, a dire il vero, c'erano lo smilzo, l'affamato, 13 decimi, Guglielmo l'arciere, l'omone mimetica e molti altri. Una compagnia bizzarra, non c'è che dire. Un giorno li arringai durante una pausa caffè. Dissi, c'è una cosa soltanto che può darvi pienamente la dignità di cittadini anche in un luogo come questo, in questa fattoria sociale, ed è il lavoro. Questa è una fattoria sociale, continuai, pensata e creata per persone come voi, che hanno avuto un momento difficile nella vita e che sono qui per provare a superarlo. Non vogliamo assistenza, mi infervorai, preso dal mio ruolo e passando al noi per creare empatia, e non vogliamo neppure comprensione. Chiediamo di avere un'opportunità E per questo ringraziamo chi ce la offre, che ci permette di far fruttare i nostri talenti, ma prima di tutto di riconoscere il talento che ciascuno di noi possiede. Noi siamo qui per conoscere noi stessi, perché la verità è questa, che ciascuno di voi, ciascuno di noi, possiede un talento e non permettete a nessuno di asserire il contrario. E se lo dovessero fare, siate pronti a dimostrare con i fatti che si stanno sbagliando. È ora di smettere di pensarvi come dei falliti. Dimenticate gli aggettivi che vi hanno appioppato nel corso degli anni, matto, drogato, alcolista o che so cos'altro, e imparate a dimenticare serbando memoria, di voi stessi soprattutto. Probabilmente il manuale del buon educatore, che ho già citato, avrebbe trovato riprovevole anche questa parte del discorso, forse anche un po' dannoso, ma fu un trionfo, e io mi sentivo un condottiero, e per tutti divenni il capo. Pensiamo che il ginepro serva solo per produrre il noto liquore, ma come ci dice Antonino Danelutto, tante sono le sue caratteristiche e utilizzazioni. I pascoli, i boschi aridi e i terreni poveri delle nostre zone collinari e montane costituiscono l'habitat preferito dal ginepro, Juniperus communis, in friulano più comunemente barancli o zenevri. Un arbusto o alberetto sempreverde, alto anche 4-5 metri, ramoso fin dalla base. Ha foglie aghiformi, pungenti, solitamente in verticilli di 3, con una striscia chiara di sopra. I fiori sono piccoli, giallastri e poco evidenti sia nella pianta maschile sia in quella femminile. Su quest'ultima si formano i frutti che maturano in 2-3 anni. Sono di colore blu-violetto pruinoso, hanno un diametro di 4-5 mm e sono detti galbuli o coccole, o impropriamente, essendo carnosi, anche bacche. In fitoterapia vengono impiegati i frutti maturi ed essiccati che contengono soprattutto un olio essenziale composto da un miscuglio di oltre un centinaio di sostanze, alcune dotate di buone attività farmacologiche. Essi pertanto risultano utili nei disturbi della digestione, favoriscono l'appetito, sono espettoranti e sedativi della tosse, provocano la diuresi e sono discreti antisettici delle vie urinarie. Si badi però che un loro uso prolungato potrebbe determinare danni renali. Anche le foglie raccolte dalla primavera all'autunno hanno proprietà diuretiche. L'uso dei frutti di ginepro in cucina è assai comune. Con essi si possono aromatizzare carni, in particolare di maiale, cinghiale e selvaggina, inoltre salumi, carni affumicate e crauti. Diversi liquori sono preparati utilizzando l'aroma dei frutti. Il più noto è il gin, che si ottiene distillando una miscela di sostanze fermentate costituita da frumento, orzo, varie erbe e spezie scelte dal mastro distillatore. Fra queste, definite botanicals, rivestono principale importanza proprio i frutti del ginepro. Un tempo si usava bruciare i rametti con le foglie e i frutti per disinfettare e profumare le camere degli ammalati o i locali delle abitazioni. Nel Medioevo si cuciva all'interno dei vestiti un ramoscello di ginepro per evitare disgrazie e tenere lontane le streghe. Si riteneva anche che il fumo dei suoi rami bruciati scacciasse i serpenti. A chi aveva subito un furto si suggeriva di piegare un ramo di ginepro fino a farlo toccare terra, bloccarlo con un sasso e gridare il nome del presunto ladro. Entro pochi giorni al derubato sarebbe stato restituito sicuramente il maltolto. Utilizzate solo acqua e materie prime sicure, il titolo di questa puntata della rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole, che ci tiene Claudia Fontanini, responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. Per evitare di ritrovarsi con il temuto mal di pancia, è importante porre attenzione nella scelta dei prodotti alimentari. I cibi e l'acqua potrebbero infatti essere contaminati da patogeni o da sostanze chimiche pericolose. L'acqua di acquedotto nel nostro territorio offre a livello domestico sufficienti garanzie di potabilità. Eventuali situazioni di contaminazione sarebbero comunicate dalle autorità competenti. L'acqua deve essere sicura non solo per aggiungerla agli alimenti, ma anche per lavare frutta e verdura, produrre ghiaccio, preparare bibite, lavarsi le mani e lavare gli utensili da cucina e le stoviglie. Durante l'acquisto e la preparazione degli alimenti è bene seguire alcune regole generali. Scegliere cibi freschi e sani. Non acquistare prodotti se si notano irregolarità presso il punto di vendita, come prodotti scaduti, scatolame aperto o rotto, confezioni gonfie, surgelati ricoperti da uno strato di brina che indica che hanno subito sbalzi termici, o ancora cibi tenuti al di sopra dei limiti di carico dei frigoriferi o a temperature non idonee. Alimenti pronti al consumo vanno comprati solo se li mangiamo in breve tempo o se abbiamo la possibilità di conservarli correttamente, o al caldo o al freddo, ma non nella fascia di temperatura pericolosa che ricordiamo tra 5 e 60 gradi. Prodotti scaduti e confezioni bombate o danneggiate vanno eliminati dalle nostre dispense. Assaggiare un prodotto se si sospetta che possa essere deteriorato può essere azzardato, perché gli alimenti, anche se contaminati, potrebbero mantenere le loro solite caratteristiche di colore, odore e sapore. Quando si mangia fuori, prestare attenzione al livello igienico generale dei ristoranti, dei locali, personale, delle stoviglie e alla corretta esposizione dei cibi. Se lasciano a desiderare, si può temere che lo stesso valga anche per le cucine. In conclusione, questa chiave di sicurezza ci ricorda che, come nelle imprese, dobbiamo fare anche noi controlli qualità e selezione dei fornitori. Si sa che la nostra regione è sempre stata terra di paste da minestra, ma pochi conoscono i mlinzi che, come ci racconta oggi Roberto Zottar, possiamo considerare a tutti gli effetti una pasta asciutta. Tra i primi piatti, nel passato, prevalevano minestre e minestroni a lunga cottura preparati con i prodotti dell'orto. L'unica minestra asciutta, come si definiva una volta, nel ricettario dei conti Caiselli della prima metà dell'Ottocento, è lo struculo di coratella che rientra nella categoria delle cosiddette guarnizioni da brodo. Nel ricettario goriziano di Suor Antonia Orsolina c'è uno strudel di polmoni, fatto da frittatine d'uovo farcite con polmone bollito, impastato con cipolla rosolata, prezzemolo, panacida e uovo e arrotolata strudel. Lo strudel viene poi bollito in un tovagliolo e le fettine sono poi coperte di brodo. La contessa Perusini ricorda vari strudel da brodo, anche a base o di cervello, o milza, o fegato e anche solo pangrattato rosolato. L'uso della pasta asciutta non in brodo è piuttosto recente. A fine Ottocento era già funzionante un pastificio a Klagenfurt che serviva anche Gorizia e già nel 1843 a Pordenone Angelo Tomadini inizia la produzione di pasta fresca realizzata con semola di grano duro. Con la tecnica dell'essiccazione la pasta diventa un elemento conservabile ed inizia la sua diffusione presso le mense friulane. Nonostante queste pionieristiche imprese, la pasta come si intende oggi non era presente nelle mense della gente comune fino alla Grande Guerra e comunque la cottura non era al dente. Nella regione si preparava invece pasta fresca fatta in casa come i blacks o i fusi istiani, che però non era conservabile anche per l'umidità delle nostre zone. C'è però una pasta più antica, dal nome sloveno, che risolveva questo problema, i mlinzi, pasta fatta con acqua, farina di frumento e farina di grano turco, o una versione più ricca anche con uova. La sfoglia, stesa con il mattarello, veniva cotta sulla piastra caldissima dello Sparherd o Spoler, la cucina economica legna. La pasta faceva delle bolle, si abbrustoliva e si realizzavano così delle sfoglie secche che si conservavano in scatole chiuse. Per preparare i mlinzi, impastate bene 150 g di farina 00, 50 g di farina di mais per polenta con due uova fino a ottenere una pasta liscia. Lasciatela riposare, quindi stendetela in sfoglie che farete scottare su una piastra caldissima o in forno. Otterrete una sorta di pane carasau locale, ottimo da mangiare anche così come fosse un cracker. Per utilizzarli come primo piatto, spezzettateli irregolarmente in mlinzi secchi, sbollentateli in acqua salata e spadellateli poi in sugo di carne e verdure o in una supetta di gallina. Spolverate di formaggio grattugiato e buon appetito! E ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni di cereicole e camere di commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,90 e 17,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 20,90 e 21,20, l'orzo tra 21 e 21,50, la soia tra 33,20 e 33,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 50 centesimi, mentre la soia è diminuita di circa 3,90 euro al quintale. Scambi positivi con discreti affari e prezzi in salita al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile viene pagata nella media tra 2,40 euro al chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero tra 2,20 e 2,30, la cicoria tra 1,1 e 20, la scarola riccia tra 2,70 e 2,80, le melanzane tonde tra 3,3 e 50, i pomodori italiani in grappolo tra 2,2 e 40, i finocchi tra 1,60 e 1,80, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso extra tra 3,50 e 4 euro, i cavoli tra 2,2 e 50, le spinaci tra 1,60 e 2 euro, i kiwi tra 1,70 e 2 euro, le clementine tra 0,70 e 1,20, le arance tarocco tra 0,80 e 1,50. Nel settore della pesca, anche se c'è freddo, l'attività è favorevole e i prezzi sono in leggero calo. I branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 15 e 25 euro al chilo al netto dell'IVA, i rombi da 20 a 28, le sogliole da 6 a 20, i calamari e i calamaretti da 14 a 22, le canoce o pannocchie da 8 a 13, le cappe sante da 9 a 14. Da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere, che viene quotata da 6,30 a 6,50 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è in calo. Infine, tendenze in calo pure nel comparto degli avicunicoli, con gli poli a terra pagati tra 0,92 e 0,94 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,33 e 1,35, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,48 e 2,54, le uova oltre 73 grammi a 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanutto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Nella prima metà del mese di gennaio sulla regione ha prevalso tempo secco e abbastanza soleggiato, percorrenti in quota in genere da nord, frutto della presenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale e di depressioni fredde su quello orientale. Ciò ha determinato ripetute e intense nevicate sull'Austria settentrionale, mentre sulle nostre Alpi si è avuta solo qualche spruzzata di neve estemporanea. Se la neve è mancata, non di certo il vento, che a più riprese ha soffiato forte sui monti, specie sulle vette, con vari episodi significativi. Gli effetti di questi venti di fene si sono sentiti anche nelle valli, con locali raffiche e improvvisi aumenti delle temperature e diminuzione dell'umidità. Le temperature sono state comunque in genere più basse della norma, specie in pianura, per le frequenti notti serene, che hanno favorito l'irraggiamento notturno e portato a picchi di 5-6 gradi sotto zero. Nella notte tra il 17 e il 18, un fronte freddo ha portato le prime precipitazioni significative dell'anno, da moderate ad abbondanti a est, con 20-30 mm circa di pioggia, meno a ovest. Su Alpi e Prealpi Giulie sono caduti in quota 50 cm di neve e 20 cm a fondo valle. Su Alpi e Prealpi Carniche ha nevicato meno, in genere da 5 a 15 cm oltre i 600 metri circa. Poi il freddo si è fatto sentire in montagna, specie sulle zone innevate. Così, dopo queste due prime decadi, il mese ha una temperatura media nella norma, sebbene con dei distinguo in base alla zona e anche alla quota. Le precipitazioni, invece, sono comunque inferiori alla norma. Infine il mare, che dopo aver stabilito il record di temperatura media annua nel 2018, ora si è raffreddato e ha raggiunto la temperatura normale del periodo. Fino a martedì avremo bel tempo sulla regione, con cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Da domani tornerà a soffiare bora moderata sulla costa. Le temperature minime saranno di nuovo sotto zero. Mercoledì la regione potrebbe essere marginalmente interessata dalla risalita di un fronte mediterraneo, che porterà cielo coperto e forse qualche debole precipitazione. La giornata sarà fredda, con la possibilità di qualche debole nevicata anche su pianura e costa, dove soffierà bora moderata. Successivamente sul Tirreno si formerà una depressione che richiamerà bora anche forte sulla costa fino a sabato. Le temperature in pianura saranno tipicamente invernali, tra i meno 4 e i più 8. Per il tempo nel prossimo fine settimana si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi.